strada senza te. Notte che non voglio dormire, fa paura sapere che ho bisogno di te. Guardo il grigio che mi circonda e capisco l'intensità di qualcosa che si è nascosto fuori e dentro di me. Senza stelle non vedo il cielo, senza cuore non posso amare. So paura di dire che amo te. E non sento più il mare, e non vedo più il cielo, perché ho bisogno d'amore. E non ho più paura di pensare che voglio vedere il mondo a colori. Guardami, guardami, guardami, fammi capire che pensi anche tu tutto questo, perché troppe volte ho paura di te. Guardami, guardami, fammi capire che senti anche tu tutto questo, perché troppe volte ho paura di te. E non sento più il mare, e non vedo più il cielo, perché ho bisogno d'amore. Paura di pensare che voglio vedere il mondo a colori. Vivirà di rinda me. Mary, Mary, blow the thing I want to dig your blow. Very, very slow, the land and get a water too.